Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sui profughi ancora scontro tra il governo e i presidenti di Liguria, Lombardia e Veneto, pronti a bloccare le prefetture, attacca Salvini. Voto in Turchia, Erdogan senza maggioranza assoluta, si va verso un governo di coalizione, tensione sulla borsa turca e crolla la valuta di Ankara. A 3 anni rapita dall'ISIS, Cristina, figlia di una coppia di cristiani assiri, mobilita il mondo cattolico, i frati di Assisi lanciano un appello. Bene la riforma del mercato del lavoro, ora ci vuole semplificazione, dice il presidente di Confcommercio Sangalli, rischio per la ripresa dalle clausole di salvaguardia. Nel giorno dei musei aperti, un'assemblea sindacale blocca per alcune ore l'accesso alla Reggia di Caserta, malori tra i turisti, i sindacati si difendono. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In primo piano oggi ancora i temi dell'immigrazione, la contrapposizione tra le regioni a guida centrodestra e il governo. L'esecutivo sarebbe intenzionato ad imporre l'accoglienza di 5.000 persone, ma Toti, Zai e Maroni dicono basta così. Il taglio dei trasferimenti ai comuni si può fare e lo farò. Nonostante le polemiche, Roberto Maroni stamattina rilancia la sua minaccia: taglieremo i fondi regionali ai sindaci che accetteranno nuovi arrivi di migranti, ribadisce il governatore della Lombardia. Siccome la Lombardia è la terza regione in Italia come numero di immigrati arrivati in rapporto alla popolazione, non accetto più che il governo decida di mandare qui immigrati scavalcando la regione, e farò quello che ho detto. A dare manforte a Maroni oggi è anche Salvini. Siamo pronti anche a bloccare le prefetture, avverte il segretario della Lega Nord. L'intervento minacciato da Maroni è illegittimo, sostiene invece il Viminale. Oltretutto arriva da un ex ministro dell'Interno che ha gestito un'emergenza immigrazione imponendo la presenza di migranti nei diversi territori, sottolinea il viceministro Bubbico. Non è con lo scaricabarile e con la demagogia che si risolvono i problemi dell'immigrazione, aggiunge il premier Renzi. Quando ci sono momenti difficili, il paese deve rispondere in modo coeso. Maroni sia responsabile, è invece l'appello che arriva dalla presidente della Camera Boldrini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di tutto questo, del fronte politico-amministrativo, torneremo a parlare più avanti in Effetto Giorno. Ospiteremo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto della Lega, e poi parleremo anche col sindaco di Bergamo, che invece del Partito Democratico, Giorgio Gori. Veniamo però alla cronaca, la cronaca degli arrivi. Abbiamo in diretta con noi Livia Zancanerra. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, quasi 6.000 profughi sono stati soccorsi nel weekend nel canale di Sicilia, 2.400 solo nella giornata di ieri. Oggi sono attesi oltre 1.000 sbarchi sulle coste italiane, i numeri ancora non sono precisi. Sono già arrivati a Lampedusa 196 migranti, tra loro donne e bambini. Più di 600 sono giunti a Crotone a bordo della nave militare Vega. Le loro condizioni di salute sono buone. Sono stati appena soccorsi altri 113 migranti, come ci spiega Filippo Marini, portavoce della Guardia Costiera. Questa mattina le condizioni meteorologiche sono particolarmente favorevoli. Una nave della Guardia Costiera, nave Dattilo, ha appena soccorso 113 migranti e si sta peraltro dirigendo verso un ulteriore target, un ulteriore battello che potrà essere un gommone o barca, questo sarà da verificare. L'operazione si è svolta a 50 miglia a nord della Libia. Al momento ci sono delle ulteriori segnalazioni, tecnicamente parliamo di correlazione, di verificare se queste telefonate sono riferite a barconi. È un'operazione, diciamo, molto tecnica che viene svolta presso la centrale operativa, e tutto questo è ancora in corso. Altri 475 migranti sono arrivati sempre stamattina a Corigliano Calabro, dove ne sono attesi altri 400 per domani. Abbiamo intervistato il sindaco Giuseppe Geraci, che ci ha detto: siamo al limite, sentiamo. Questo è il quarto sbarco che noi abbiamo da gennaio. Per noi è un peso enorme poter garantire i servizi ogni qualvolta c'è uno sbarco. Abbiamo fatto presente questo già ieri alla prefettura. Domani ci sarà uno sbarco, oltre 400 migranti, e quindi mettere su subito la struttura in piedi per poter garantire questo servizio d'accoglienza, lo si fa una volta, due volte, ma se la cosa dura all'infinito noi andiamo in tilt completamente. E la situazione potrebbe potrebbe anche peggiorare dopo gli oltre 50.000 arrivi da inizio anno. Fonti inglesi non confermate parlano di 500.000 di profughi pronti a partire dalla Libia. Secondo il governo italiano, quest'anno gli arrivi saranno 200.000 rispetto ai 170.000 dello scorso anno. E per ora è tutto, a te Simone. Grazie Livia Zancaner per questi aggiornamenti. Noi, come si diceva, di tutto questo torneremo a parlare più avanti nella seconda parte della trasmissione. Intanto andiamo all'estero e ci spostiamo per le importanti elezioni in Turchia che hanno visto una battuta d'arresto per Erdogan. Il suo partito ha avuto un netto calo di consensi e abbiamo assistito anche all'ascesa del partito curdo guidato da Selahattin Demirtas. L'impatto sui mercati in Turchia stamattina si è fatto sentire con la lira turca ai minimi, tanto sull'euro quanto sul dollaro, e la banca centrale è costretta ad intervenire, e la borsa turca che è scesa è arrivata a perdere oltre l'8%. Siamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore ad Istanbul, Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, cosa rappresenta? Sì, prego, prego. Ma dunque, siamo veramente a una svolta epocale, è finita un'era, perché il partito conservatore religioso di Erdogan ha dominato la politica turca per 13 anni e oggi non ha più i voti, pur avendo vinto le elezioni, per formare un governo da solo. Questo significa che si entra in una fase di alta instabilità, cioè in una fase in cui non si sa come e chi potrà formare un governo. Il presidente Erdogan ha subito dichiarato, invitando i partiti, fatto una dichiarazione per invitare i partiti ad agire con senso di responsabilità, cioè per formare una coalizione. Ma attenzione, è difficile mettere insieme partiti che si sono combattuti così ferocemente durante la campagna elettorale. E in questa fase la Turchia probabilmente rivedrà alcune scene del passato, quando era difficile formare delle coalizioni, i mercati hanno già in qualche modo misurato e tastato il polso del risultato elettorale. La grande novità comunque è proprio l'entrata in Parlamento dei curdi. Ecco Alberto, proprio su questo, se mi permetti, vorremmo capire da te chi è quest'uomo nuovo che ha portato appunto all'entrata dei curdi in Parlamento questa grande novità che ci raccontavi, questo Selahattin Demirtas. Selahattin Demirtas è un avvocato con grandi capacità oratorie che è riuscito a distaccarsi, come dire, dalla retorica della guerriglia del PKK, della violenza che agita le aree curde, per fare un discorso più ampio di quello soltanto localistico, per rivolgersi un po' a tutta la Turchia, conglobando dentro a questo partito, nelle liste di questo partito, molte donne, ne ha fatte eleggere almeno una quarantina, le minoranze, cristiani, gli esidi, insomma ha cercato di dare quello che è il volto nuovo di questo paese che Erdogan in qualche modo aveva rappresentato per alcuni anni e che poi non ha saputo più capire. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per il suo racconto e per la sua analisi di questo voto in Turchia. Noi restiamo all'estero per un'iniziativa lanciata dai frati di Assisi in favore della liberazione di una bimba rapita dall'ISIS. Aida e Khidir sono ospiti del campo profughi La Pace ad Erbil, è lì che hanno incontrato i frati francescani di Assisi ed è lì che anche a loro hanno raccontato la loro drammatica storia. La notte del 6 agosto, mentre stavano cercando di lasciare con grosse difficoltà, perché Khidir è cieco, la cittadina alle porte di Mosul, finita nelle mani dello Stato Islamico, hanno perso la loro bambina. Cristina è stata strappata dalle braccia della mamma. Da allora Aida e Khidir le hanno tentate tutte, hanno anche pagato dei soldi per riavere la loro bambina. Ora l'iniziativa dei frati francescani, il portavoce padre Enzo Fortunato. Un giovane miliziano gli ha detto se non vai via uccido te e tua figlia, quindi ritorna sull'autobus. Noi abbiamo iniziato ieri con un grido Save Cristina attraverso Twitter San Francesco Assisi e vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica, e accanto a questo grido di aiuto anche un gesto concreto attraverso l'SMS solidale 45505 fino al 26 sarà possibile donare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È la settimana questa nella quale dovrebbe arrivare il rapporto del prefetto Gabrielli su Roma, un rapporto che potrebbe preludere addirittura lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il punto, dopo la seconda parte, le inchieste su Mafia Capitale con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo allora, Simone, proprio dalla tempistica istituzionale legata alla vicenda di Mafia Capitale. Entro la settimana e per esattezza entro il 15 giugno sul tavolo del prefetto di Roma Gabrielli arriverà la relazione della commissione d'inchiesta istituita a dicembre. Dopo il primo blitz contro Carminati e soci, Gabrielli avrà quindi 45 giorni di tempo per trarre le sue conclusioni su un eventuale commissariamento o meno del Comune di Roma da proporre al Ministero dell'Interno. Sarà dunque il governo al termine dell'iter a dire l'ultima parola sul futuro del Campidoglio. Oggi sembra tutto molto chiaro e lampante, ma a dicembre e a marzo, quando è stata prorogata la commissione d'inchiesta, spiega allo stesso Gabrielli, le situazioni non erano così conclamate. Il quadro che esce fuori, aggiunge Gabrielli, è estremamente desolante, con una pubblica amministrazione che si è prestata all'attività criminale di un gruppo che aveva compreso la possibilità e le debolezze della macchina e di chi aveva responsabilità in ambito politico. Ma come intervenire allora? È lo stesso Gabrielli a fare alcune riflessioni, anche ritornare alle elezioni non basterebbe a fare davvero pulizia. La mafia, nel caso di Roma, conclude il prefetto, si aggancia alla mala gestione e alla corruttela della macchina amministrativa. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Una notizia appena battuta dalle agenzie: Fiat Chrysler assumerà altri 1000 lavoratori negli stabilimenti italiani entro il 2015, applicando il Jobs Act. Saranno inoltre stabilizzati a tempo indeterminato i 1500 dipendenti assunti a Melfi. La notizia è stata data da Alfredo Altavilla, responsabile per la gestione europea di FCA, che ha incontrato i sindacati. Siamo al G7 che si sta svolgendo in Germania. Sentiamo. Seconda e ultima giornata del G7 a guida tedesca di Schloss Elmau nelle Alpi Bavaresi. Il consulto dei grandi sui mali del mondo, si chiamino essi crisi economica, rapporti con la Russia, terrorismo, immigrazione, cambiamenti climatici, non produce, come ormai è consuetudine, ricette miracolose, ma almeno chiarisce alcuni punti fermi sui quali i singoli governi cercheranno di impegnarsi in quella difficile opera di mediazione sulla governance globale. Ieri le porte del summit si sono aperte come tradizione ai leader di alcuni paesi emergenti, Tunisia, Iraq, Nigeria, Etiopia, Liberia e Senegal, con i quali i 7 grandi hanno discusso di sviluppo e lotta al terrorismo. Poi, proprio ora in corso, la colazione che chiuderà il vertice con una posizione molto ferma sulla Russia, dopo la ripresa dei combattimenti nell'est dell'Ucraina, l'appello a una crescita sostenibile, l'attenzione al fenomeno delle migrazioni e la sicurezza alimentare. Il premier italiano Matteo Renzi ha avuto incontri bilaterali con il premier giapponese Shinzo Abe ieri e oggi col presidente tunisino. Una stretta di mano anche con il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde. Russia e immigrazione, i punti principali sui quali Renzi è intervenuto, ma anche crisi economica e crescita sulla quale si è registrata piena sintonia con gli Stati Uniti. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Schloss Elmau. Parliamo di serie televisive adesso. Per chi ama Grey's Anatomy è arrivata ed è in arrivo una brutta notizia, ossia il fatto che scompare uno dei simboli di questa serie televisiva. Sentiamo. Anche i fan italiani questa sera diranno addio al dottor Derek Shepherd. L'attore Patrick Dempsey, appassionato di automobilismo nella vita, viene eliminato dalla serie televisiva di successo Grey's Anatomy con un incidente d'auto, falciato da un camion dopo aver prestato soccorso a bordo strada. L'ultima puntata che lo vede tra i protagonisti andrà in onda questa sera su Fox Life. Negli Stati Uniti la puntata è già stata trasmessa il 23 aprile scorso ed è stata vista da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, il 20% in più della media di stagione. E da allora il web è impazzito, con le fan arrabbiate, in particolare con l'autrice della serie ospedaliera, Shonda Rhimes, unica colpevole per la morte dell'amato Derek. Come sempre, quando un protagonista di una serie di successo muore, si dice non ha firmato il contratto per le altre puntate, e della dipartita di Dempsey si vociferava già dallo scorso anno. Due le ipotesi più accreditate: una che l'attore sia in procinto di dedicarsi a una carriera alternativa, quella delle corse in auto, e l'altra che punterebbe a produrre se stesso. In un'intervista intervista pare abbia accennato a un paio di progetti televisivi. Ma si parla anche di un litigio con l'autrice Shonda Rhimes, come pure di un licenziamento dovuto a una scappatella sul set. In Italia Grey's Anatomy andrà in onda su Fox Life fino al 29 giugno. E mentre a Hollywood e sul web ci si chiede chi sostituirà Patrick Dempsey, si attende di capire cosa si inventeranno per dare nuova linfa alla serie che va in onda dal 2005. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire il traffico, poi ritorneremo sul tema dell'immigrazione, intervisteremo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, della Lega, sentiremo anche un sindaco del PD, Giorgio Gori, di Bergamo, dopo che il presidente della Regione Lombardia, Maroni, ha detto a chi accoglie immigrati, ai sindaci che accolgono immigrati, toglieremo i contributi regionali. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sui profughi ancora scontro tra il governo e i presidenti di Liguria, Lombardia e Veneto, pronti a bloccare le prefetture, dice Salvini. Voto in Turchia, Erdogan senza maggioranza assoluta, si va verso un governo di coalizione. Tensione sulla borsa turca e crolla la valuta di Ankara, interviene la banca centrale. Rapita 3 anni dall'ISIS, Cristina, figlia di una coppia di cristiani assiri, mobilita il mondo cattolico, i frati di Assisi hanno lanciato un appello. Nel giorno dei musei aperti, un'assemblea sindacale blocca per alcune ore l'accesso alla Reggia di Caserta, malori tra i turisti, i sindacati si difendono, sentiremo uno dei sindacalisti collegati a questa vicenda più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Io intanto saluto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, della Lega. Buongiorno Zaia, benvenuto. Buongiorno. Anzi, grazie anche per l'ospitalità. Bentornato ai nostri microfoni. Allora, il suo collega Roberto Maroni dice se c'è qualche comune che ha intenzione di accogliere altri immigrati o, per meglio dire, presunti profughi in questa fase, finché non avverrà il riconoscimento, per così dire, dell'eventuale status appunto di rifugiati politici, io non gli passo più i contributi regionali. Ha intenzione di procedere sulla stessa linea? No, guardi, il problema è un po' diverso in Veneto perché non abbiamo diciamo delle fallanze, visto considerato che il governatore, i sindaci e anche alcune prefetture sono sulla posizione di dire di no. È un no che è praticamente unanime, per cui noi diciamo che abbiamo già dato, perché abbiamo già quasi l'11% della nostra popolazione che è data dei migranti. Anche le prefetture, mi diceva? Sì, ma guardi, non più tardi di qualche mese fa le prefetture hanno detto guardate che in Veneto non c'è più spazio. Del resto dei 514.000 migranti che abbiamo, che vorrei sottolineare non sono arrivati con i voli di linea e con i tour operator, ma sono arrivati con mezzi di fortuna da disperati, e oggi 42.000 di questi sono senza lavoro, per cui per noi è una vera e propria emergenza. Sì, nella fattispecie però, come sa Zaia, si tratta di gestire il problema di questi, come si dice, presunti profughi, presunti rifugiati politici, perché arrivano, chiedono l'asilo politico, poi bisogna vedere se gli viene concesso e se evidentemente hanno i requisiti. Cioè c'è anche un punto, se vuole, di solidarietà nazionale da mettere in campo, non trova? Beh, guardi, innanzitutto lei dice bene presunti, perché i dati del Ministero ci dicono che Mare Nostrum ha fatto capire che 2 su 3 non sono profughi, non hanno poi il riconoscimento del rifugiato, sono migranti economici, al pari dei miei emigranti che ho oggi in Veneto. Dall'altro, altrettanto vero che questa non è una fase acuta, finiamola col descrivere questa fase come un'emergenza, è da anni che esiste questo problema ed è da 3 anni e mezzo. Zaia, mi scusi, questo è vero, sì. Dall'altra parte è vero che la crisi in Siria c'è adesso, cioè la novità sta, no, nella condizione di una parte di questa umanità, sì, che si muove sul nostro mare, no? Guardi, io per coerenza ho detto di no anche al nostro governo nell'aprile 2011 e ricordo che in quell'anno sono arrivati in 62.000 in Italia. E da lì tutte le primavere e l'estate sono arrivati i profughi. La verità è che la comunità internazionale che ha coperto e avvallato i raid aerei in Libia oggi deve occuparsi di dar vita dei campi di prima accoglienza, appunto gestiti dalla comunità internazionale. Quindi mi dice, nessun sindaco veneto è disposto ad accogliere migranti? Nessuno? Dalle informazioni che ho io, no, guardi, il fronte è compatto. Se poi c'è qualcuno che li vuole accogliere, lo dica pubblicamente, a me non risulta. Senta, il leader del suo partito Salvini dice siamo pronti a bloccare le prefetture, che vuol dire? Beh, quando si sente dire da Roma da gente che vive negli uffici, non è in mezzo al popolo, che avvieranno, addirittura attiveranno le confische, ma le confische di che? Vuol dire essere degli ipocriti, pensare che tendopoli e ospitalità in caserme, che sono delle autentiche discariche a cielo aperto, che sono abbandonate da 20-30 anni, siano la soluzione. La soluzione non è questa, la soluzione è aiutarli a casa loro. Soluzione è aiutare, però ci sono dei casi nei quali non si riesce a fare, appunto. Beh, ad esempio, dando vita penso appunto a Siria e Iraq, no? Per esempio. Esatto. Quando diamo vita a dei campi di prima accoglienza gestiti in maniera rispettosa della dignità umana, come ad esempio abbiamo fatto in Afghanistan, i risultati si vedono. Grazie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Una risposta all'ascoltatore che abbiamo utilizzato il termine presunti profughi e presunti rifugiati politici semplicemente perché devono essere sottoposti ad un processo di riconoscimento. Nel momento nel quale arrivano in Italia dicono chiedo l'asilo politico e il nostro paese o altri paesi europei valutano effettivamente se dare questo asilo politico, ossia se vi sono i requisiti. Fino a quel momento sono presunti, cioè non è una valutazione di merito, una valutazione quasi per così dire giuridica. Sono richiedenti asilo, se vogliamo essere più precisi, che vuol dire che non sono effettivamente delle persone che hanno l'asilo politico. Come si diceva, il presidente della Regione Lombardia vuole addirittura bloccare i finanziamenti regionali ai comuni che accolgono questi profughi o accolgono nuovi migranti. Ne vogliamo parlare con un sindaco di centrosinistra del Partito Democratico, è il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vorrei capire qual è la vostra risposta. Ah, quella di Maroni ieri è suonata proprio come una minaccia. Ha detto taglierò i contributi ai comuni che accolgono gli immigrati. Ovviamente la risposta è stata quella di rispedire al mittente questo ricatto, non ha nessuna legittimità, che è inaccettabile dal mio punto di vista e credo dal punto di vista della maggior parte dei sindaci, i quali vivono con grande fatica, grande difficoltà, la responsabilità di dover dare accoglienza a persone che arrivano in condizioni di grande disagio e non hanno certo bisogno di ritrovarsi il presidente della loro regione che anziché dare loro una mano, un supporto, una rappresentanza autorevole a Roma, li minaccia, li ricatta di tagli che non è neanche legittimato a fare. Senta, Maroni dice anche attenzione, la Lombardia è la regione che accoglie più immigrati in assoluto, rappresentano il 9% della popolazione totale, contro percentuali delle altre regioni che sono molto inferiori. Dice a questo punto noi non abbiamo più margini. Qua si fa una grande confusione tra immigrati che sono perfettamente integrati nelle nostre comunità, lavorano, creano imprese, contribuiscono non marginalmente a garantire un minimo di equilibrio demografico in una regione che diversamente sarebbe tra le più vecchie d'Europa, e invece questi profughi che arrivano provenienti da paesi in guerra in condizioni di grandissima difficoltà. Allora, non, ovviamente non abbiamo il 9% di profughi, abbiamo, io dico anche per certi versi, per fortuna, una buona componente di immigrazione legale, perfettamente attiva e in buona misura integrata nelle nostre comunità. Questo non significa ovviamente che, come dicevo, sia una passeggiata, anzi, accogliere l'immigrazione di queste settimane, l'immigrazione dei migranti, dei profughi, è un onere molto pesante per i nostri comuni. Quando il prefetto ci chiama e dice cari sindaci, sono in arrivo altre centinaia di profughi, non è che noi reagiamo facendo festa, è un problema molto grosso a cui facciamo fatica a dare una risposta, però a maggior ragione, ripeto, mi aspetto che la regione sia al nostro fianco e non contro di noi. Ancora oggi Maroni dice stiamo facendo una serie di proposte su quest'ipotesi di blocco dei trasferimenti ai comuni che ospitano nuovi migranti, si può fare e lo farò, dice che ha incaricato l'assessore all'economia Garavaglia di studiare il metodo. Ecco, nel caso questo avvenisse, che cosa fareste? Io credo che faremmo tutti i ricorsi del caso, perché non ritengo in alcun modo legittima la posizione di Maroni. Oltretutto buona parte delle dei meccanismi di accoglienza è gestita dalle prefetture, non dai comuni. I comuni sono, diciamo, possono dare una sponda eventualmente, ma sono le prefetture incaricate direttamente dal Ministro dell'Interno di trovare sistemazione per i profughi che arrivano dal Nord Africa. A maggior ragione quindi è del tutto fuori luogo una minaccia che invece si rivolge alle autorità amministrative. Che margini pensate di avere a Bergamo in particolare? Cioè, che margini di accoglienza pensate ancora di avere in termini di strutture e di capacità, Sindaco? I margini sono limitati, ma io credo che tutti quelli che sono chiamati ad una responsabilità umanitaria non si tireranno indietro, e chi lo farà secondo me sarà moralmente criticabile, proprio perché sappiamo che queste persone arrivano in condizioni delle condizioni più critiche, quindi non è dato secondo me pensare di lasciarli in mezzo alla strada o di sperare che non arrivino alle coste italiane. È vero che vanno rivisti i meccanismi complessivi, perché dobbiamo cercare di evitare la partenza di queste persone dai loro rispettivi paesi, ma è su questo che noi chiediamo un maggior impegno del nostro paese, una cooperazione dell'Europa, e lì su questo punto vanno spese tutte le energie politiche che noi comuni possiamo profondere, ma che certamente il Presidente della Regione Lombardia potrebbe collaborare a rendere più forti. Un'ultima domanda, se permette, riguarda il territorio che circonda Bergamo, dove comuni a guida leghista sono tanti, dove la Lega è molto forte, dove questo tipo di tensioni vengono sentite in maniera particolarmente forte, appunto. La domanda è questa: ci saranno dei comuni che diranno no, proprio per il tipo... Sono già diversi che hanno detto no. Appunto, per il tipo di amministrazione perché la Lega ha già preso questa posizione strumentale, demagogica, e ha chiuso le porte dei propri comuni all'accoglienza dei profughi. Questo significa in pratica che i comuni centrosinistra si debbono far carico di un onere doppio. Esattamente a questo che volevo arrivare, volevo capire come la vivete, insomma. Con grande difficoltà, con grande disagio, ma anche con una consapevolezza della nostra diversità in termini di attenzione umanitaria nei confronti di queste persone. Ognuno fa le scelte che ritiene di fare, ma la responsabilità di chi dice di no porta a scaricare su altri comuni, su altri colleghi, su altri cittadini un onere doppio. Grazie a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Noi passiamo a parlare di Confcommercio, che oggi ha celebrato la sua assemblea a Milano. C'era là la nostra Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone e agli ascoltatori. Si è conclusa circa un'ora fa l'assemblea per i 70 anni dell'associazione di Confcommercio. 3.000 imprenditori sono stati invitati quest'anno. Ha parlato il presidente Carlo Sangalli dicendo che ci sono chiaramente dei segnali di ripresa, ma dice Sangalli il paese è sospeso tra la crisi e la ripresa, perché la ripresa si possa trasformare in vera e propria crescita, ha detto Sangalli, ci vuole una riduzione della spesa pubblica in particolare. Ha detto che è stato positivo il Jobs Act realizzato dal governo, ora però bisogna puntare, ha detto, alla riforma del fisco, alla semplificazione. Per arrivare comunque a livelli del 2007 serviranno ancora 5 anni. È stato anche mandato da Milano, è arrivato il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio all'Assemblea, e Mattarella dice anche lui vede un segnale di ripresa, dice che quest'anno l'Assemblea si svolge in una stagione di profondo cambiamento contraddistinta da una ripresa economica e da segnali incoraggianti. Ha parlato anche il Ministro per lo Sviluppo Economico Guidi, e il Ministro ha detto che rispetto a un anno fa quando era presente all'Assemblea i risultati ci sono stati, ha detto è un'altra Italia, i dati ci consentono un ottimismo non di maniera. Devo dire che ci sono stati anche dei fischi quando il ministro ha attribuito al governo il successo della ripresa di quest'anno, e anche quando ha ricordato gli 80 euro in busta paga. Ha preso qualche applauso invece il ministro quando ha dichiarato che non scatteranno invece le clausole di salvaguardia. Per ora è tutto. E grazie Valentina Furlanetto. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e parleremo con un sindacalista della UIL Pubblica Amministrazione che fa parte Caserta, il gruppo che ieri mattina ha di fatto bloccato la Reggia di Caserta nelle prime tre ore dall'apertura per un'assemblea, facendo sì che migliaia di turisti si affollassero fermi fuori, che non potevano entrare, alcuni sono stati anche male. Parleremo con lui e gliene chiederemo conto. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva dalla Siria: almeno 20 civili, tra cui 5 bambini, sono morti nel bombardamento governativo, in un bombardamento governativo su un mercato a Janudia, nel nord-ovest del paese. E sui profughi e sugli immigrati ancora scontro tra il governo e i presidenti di Liguria, Lombardia e Veneto, pronti a bloccare le prefetture, dice Salvini. Come avete sentito, Zaia invece sostiene che nessun comune veneto è disposto ad accogliere nuovi immigrati. Il voto in Turchia: Erdogan senza maggioranza assoluta, si va verso un governo di coalizione, tensione sulla borsa turca e crolla la valuta di Ankara. A 3 anni rapita dall'ISIS, Cristina, figlia di una coppia di cristiani assiri, mobilita il mondo cattolico. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ieri era libera l'entrata in tutti i monumenti statali italiani per l'iniziativa Domenica al Museo, voluta dal Ministero dei Beni Culturali. Entrata gratuita. Ci sono una serie di cittadini che nella prima parte di mattinata ieri non hanno potuto usufruire di questa idea, di questa giornata alla Reggia di Caserta. Perché? Perché era in corso un'assemblea sindacale che è durata fino alle 11. Abbiamo con noi Angelo Doni, che è coordinatore provinciale beni culturali della UIL Pubblica Amministrazione Beni di Caserta e dipendente in servizio alla Reggia, che quindi evidentemente ieri era in assemblea. Donia, ci spiega come mai proprio nella giornata di ieri e proprio nella prima parte della mattinata, sappiamo che ci sono stati anche dei malori tra i turisti, avete fatto questa assemblea? Allora, buongiorno a tutti. Il problema nasce, diciamo, non da ieri, che purtroppo le cose succedono poi all'improvviso, nel senso che tutti quanti, dopo che è successo il cadavere, stanno cercando chi è il colpevole. Allora, tengo a precisare che l'assemblea nasce dopo una serie di iniziative che hanno portato a quella di ieri. Allora, tutto è nato addirittura, stiamo parlando del 7 di settembre del 2014, dove sì, la UIL proclamò un'assemblea di tre ore nella prima domenica, di non, diciamo, dove lo stesso era non a pagamento ma era gratuita. Sì. Allora, che successe? Per spirito chiaramente di responsabilità, avendo avuto prima di quel giorno dei contatti con le istituzioni, eccetera, dove si erano presi degli impegni concreti, dove loro volevano affrontare questo problema dei venditori abusivi, noi giustamente ritirammo l'assemblea e tutto andò tranquillo e liscio. Poi, dopo questo frangente, quindi stiamo parlando di 10 mesi, non di un giorno, attenzione, nessuno si è fatto più vivo, nessuno si è posto il problema, ma che succede a Caserta? Allora, chiaramente, noi che facciamo? Il 13 di maggio facciamo un'altra assemblea, però la facciamo di 2 ore, poi è diventata addirittura di 1 ora e mezza, sempre per dare quel senso di responsabilità e per dire: guardate, noi siamo in queste condizioni, voi ad oggi non avete ancora fatto capire cosa quindi volete fare. Lei dice, la stringo, mi scusi Donia, senza fare tutta la cronistoria, la stringo, non vi hanno ascoltato e quindi avete deciso di fare un'assemblea nel giorno dell'apertura gratuita della Reggia di Caserta. Attenzione, viene proclamata questa assemblea 25 giorni fa. Allora, qui è quello che mi domando: scusate, ma tutti quelli che oggi si stanno preoccupando, va bene, in primis il ministro che vuole dare le lezioni di sindacato, ma dove stavano? Perché non ci hanno contattati? Per dire: ma scusate, ma qual è il problema? E perché voi non la fate infrasettimanale l'assemblea? E perché non la facciamo infrasettimanale? Perché chiaramente, facendola infrasettimanale, lei lo sa benissimo, purtroppo le nostre azioni devono essere per forza, quando si arriva a mali estremi, estremi rimedi. Quindi c'era la volontà di fare un'azione eclatante per certi versi. Per far capire che ci sono dei problemi a Caserta, e guarda caso la riprova che oggi non solo lei come radio, ma il TG1, ieri il TG3 e tutti i mass media nazionali. Sì. Stanno dando risalto a questo fatto che c'erano delle persone fuori. Assicurare, noi riceviamo anche gli sms, vi assicuro che non è che state suscitando una particolare simpatia, Adonia, glielo devo dire. Ma la simpatia purtroppo lo so, ma il purtroppo, vede, il sindacato, perché noi purtroppo, quando lo so, noi chiediamo scusa prima di tutto all'utenza, perché noi viviamo di utenza, però quando siamo veramente malmenati, non ne parla nessuno, quando uno dei nostri va in ospedale, perché è attaccato dagli abusivi. Sì. Dagli abusivi nessuno ne parla, perché poi non sono venditori ambulanti, sono stanziali, cioè stanno sempre qui e sono sempre i soliti 15 che tutti conoscono. Quindi questo è un problema politico-sociale che nessuno vuole affrontare. Però quando giustamente c'è l'utente. Quindi, che si però, sente male, però Donia, solo questo. Mi sembra aver capito che lei comunque chiedete scusa ai turisti per. Ma su quello noi abbiamo addirittura messo un cartello che ci scusavamo, abbiamo fatto in modo da mandare noi, perché l'amministrazione, tra l'altro, non ha manco avvisato che c'era l'assemblea. Perché se ci fosse stata un'amministrazione seria e un ministro che si occupava del problema, avrebbe fatto dei tweet, come si usano Donia, che c'era l'assemblea. Donia, devo chiudere, perché sennò una trasmissione un po' troppo, perché dovrei fare anche intervenire gli ascoltatori via telefonata. Non ne uscirebbe, le dico, da quel che vedo gli sms non ne uscirebbe benissimo. La ringrazio comunque, Angelo Donia della Will Pubblica Amministrazione Traffico.